Nasce un po' per caso, diciamo, perché sia io che Francesca, anche per motivi anagrafici, diciamo, non abbiamo conosciuto direttamente Marcella, ma ci siamo imbattuti nella piazza che il comune di Bologna le ha dedicato nel 2021 e quindi nella sua storia, che è una storia unica, direi, che ci ha, insomma, appassionato immediatamente, perché non è appunto solo la storia, una storia di vita di una persona che appunto ha avuto una vita molto piena, ma è anche una storia che racconta tantissime cose sul movimento per i diritti delle persone trans in Italia e non solo, direi, anche proprio sui cambiamenti della società italiana rispetto a questo tema, che è stato un tema soppresso, diciamo, e proprio dimenticato, messo in un angolo per tantissimo tempo, che invece oggi è ancora attualissimo. La stessa Marcella, diciamo, le sue riflessioni, che sono riflessioni magari di 10 o 20 anni fa, sono ancora attualissime, ecco. Una cosa che colpisce nella vita di Marcella Di Folco è che l'attivismo, la politica sono mescolate, però senza conflitto, diciamo così, con anche parti più leggere. Lei è stata una delle protagoniste dei film di Fellini. Sì, esatto, questo, diciamo, prima di fare l'operazione, quindi è stata, diciamo, immortalata sullo schermo con sembianze maschili, però ha vissuto anche questa stagione del cinema italiano, e non solo, è stata anche quella che si chiama butta dentro, diciamo, il cerbero del Piper, un altro a Roma, il Piper Club, quindi un altro, diciamo, luogo storico appunto della cultura italiana, mi viene da dire, insomma, di quegli anni. Sicuramente lei nella sua vita appunto è sempre riuscita a tenere insieme questi due registri, diciamo, quello dell'impegno politico e quello, se vogliamo, più della spensieratezza, anche del divertimento e della cultura, perché, come lei ricordava sempre, l'essere trans soprattutto non è una scelta, è una questione di identità, e quindi, come dire, quasi è normale che questi due piani non si possano scindere, perché la sua lotta e la lotta di tutte le persone trans è una lotta per il riconoscimento della propria identità e della propria vita, diciamo, e della libertà di vivere la propria vita. Il podcast è strutturato in 8 puntate. Come avete scelto di raccontare la vita di Marcella? Sì, l'abbiamo fatto appunto raccogliendo molto materiale di archivio, la voce ovviamente direttamente di Marcella, che era già stata raccolta da Simone Cangelosi, che è stato un suo grande amico. Poi ovviamente abbiamo inserito molto materiale di archivio dagli archivi di Radio Radicale, quindi, diciamo, di quello che appunto è stato sono state le lotte del MIT, del Movimento Identità Trans, negli anni, e poi anche con una serie di interviste di persone che ovviamente hanno condiviso, diciamo, dei pezzi di strada con Marcella. Quindi c'è ovviamente Porpora Marcasciano, c'è Lalla Golfarelli, che è stata una ex assessore alle politiche sociali del comune di Bologna quando Marcella era consigliera comunale appunto a Bologna, c'è Vladimir Luxuria e appunto altre persone che hanno avuto un ruolo o nella sua vita o appunto nel percorso, ecco, del movimento per i diritti delle persone trans in Italia. Questo podcast, questo progetto, c'è anche un sito. Sì, esatto, perché abbiamo deciso di creare anche un sito che si chiama maiannoiata.it, dove appunto abbiamo ricostruito sostanzialmente una cronologia navigabile di tutti quelli che poi sono appunto gli eventi che siamo andati a narrare, ecco, e quindi potete visitare questa cronologia, navigarci, ci sono varie foto, link, video, per capire un po' meglio appunto il contesto. E è possibile anche sostenere il vostro progetto, giusto? Sì, esatto, questo è un progetto completamente indipendente e autofinanziato, che ha dovuto, diciamo, sostenere dei costi, e uno, diciamo, dei costi più gravosi è quello che riguarda i diritti dei materiali di archivio RAI, che hanno una scadenza di 5 anni, quindi questo in realtà è un podcast con una data di scadenza, ovvero il 1 settembre 2028. Se non riusciremo a rinnovare appunto i diritti RAI, il podcast, diciamo, dovrà essere rimosso dalle piattaforme, quindi abbiamo anche iniziato una campagna di crowdfunding per questo, ecco.